America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. As president and commander in chief, I have no greater responsibility than the security of the American people. Ecco, avete sentito un appello appassionato del presidente americano Barack Obama. Dobbiamo cercare in tutti i modi di arrivare a un accordo con l'Iran sul nucleare. È il giorno X e oggi è la giornata, siamo così, ci sono questi momenti storici che abbiamo passato anche negli ultimi giorni, e per Barack Obama si tratta di fare un poker, perché se riesce davvero a portare a casa oggi o nei prossimi giorni, diciamo, questo accordo con l'Iran, questo accordo si aggiunge al potere negoziale speciale sul fronte commerciale che ha ottenuto con i repubblicani, alla Corte Suprema che gli ha dato l'ok su Obamacare e di nuovo alla Corte Suprema che gli ha dato l'ok sui matrimoni gay. Quindi è un momento molto particolare per il presidente. Ci sono dei dubbi. Negli ultimi giorni abbiamo visto, per esempio, l'ayatollah Khamenei che ha detto: io non darò mai l'ok a un accordo che preveda l'apertura, per esempio, delle nostre basi militari alle ispezioni. Da parte americana ci sono stati degli esperti che hanno scritto una lettera al presidente mettendolo in guardia, dicendogli: guarda che tu stai facendo troppe concessioni pur di chiudere questo accordo, stai indebolendo le ispezioni internazionali alle strutture iraniane, soprattutto appunto alle strutture militari che dovrebbero essere comunque ispezionate, stai rinunciando all'obbligo da parte iraniana di rivelare quelle che erano state le attività passate su ricerche di armamenti nucleari, si consente alla Repubblica Islamica di riprendere un'intensa produzione di combustibile nucleare alla scadenza dell'intesa. Ricordiamoci che Barack Obama era partito dicendo: basta, non potranno mai più arricchire uranio, chiuderemo tutte le centrifughe che in questo momento servono all'Iran per arricchire l'uranio. E soprattutto ce n'è una quarta, anzi una quinta, e cioè che l'Iran potrà continuare a fare una ricerca per poter avanzare il livello dei suoi acceleratori. Di fatto, quando l'accordo finirà, fra 10 anni, l'Iran si troverà nella posizione di poter ricominciare a arricchire l'uranio, di avere delle macchine che consentiranno di farlo molto molto più rapidamente di prima e di essere così in grado di riprendere non solo la produzione, ma di riprenderla in modo molto più rapido per poter avere una bomba in tempi rapidi. Queste sono le preoccupazioni. Io con me da Vienna, ai microfoni di America 24, Paolo Valentino, che è proprio a Vienna per seguire questo evento storico. Buongiorno Paolo. Buongiorno Mario. Allora Paolo, come dire, oggi è un po' un giorno X, forse ci abbiamo qualche margine. Come vedi la situazione dal campo intanto? Ma è un giorno X, anche se non credo che oggi chiuderanno. Fa parte un po' anche della tradizione di questi negoziati, per cui quando si arriva al momento finale si fermano gli orologi, si prosegue a oltranza per definire gli ultimi dettagli. Se posso fare una previsione, andiamo verso un accordo, siamo a 80 probabilità contro 20 che l'accordo si faccia, potrà succedere nelle prossime 24 ore, potrà succedere nelle prossime 48 ore, ma ci sono interessi fortissimi da ambedue le parti perché si giunga l'accordo. Tu accennavi prima alle schermaglie che hanno preceduto l'inizio di questa volata finale, le dichiarazioni di Khamenei, che è vero, le ha fatte, ma devo dire che le ha fatte anche alla vigilia di ogni tornata negoziale, e puntualmente le tornate negoziali si sono chiuse con degli accordi. Ci sono questi allarmi americani manifestati dagli ex consiglieri di Obama, ma è chiaro che ormai l'amministrazione ha puntato sicuramente a un accordo. Ecco Paolo, un accordo, ma a che prezzo? Perché questo è poi l'aspetto centrale, tanto più che questo accordo poi dovrà essere comunque ratificato dal Congresso americano, per cui Obama ha ceduto alla fine nei confronti del Congresso, glielo porterà. Allora, per esempio, ti faccio una domanda specifica. Questo fatto che alcune strutture militari saranno esonerate dalle ispezioni, ti sembra rassicurante o no? Io ho parlato con un vecchio esperto di negoziati militari che è Richard Barth, se tu te lo ricordi, capo dei negoziatori americani ai negoziati sugli euromissili a Ginevra, e lui mi diceva che in realtà c'è un grosso margine di ambiguità, perché si tratta di come definisci i siti militari, che cosa è un sito militare, e all'interno di questo gli iraniani possono dire di no pur in realtà garantendo agli americani l'accesso ai siti che contano. Questo mi spiegava, c'è un problema di cosa definisci un sito militare. militare, anche perché non è che una caserma è un posto dove si fa ricerca nucleare o dove ci siano delle centrifughe, per dire. Sì, sì, no, ma loro hanno escluso Tukur qualunque centro militare, ecco. Questo lo dice Khamenei, ma l'ha sempre detto, ma non è nelle cose, cioè non è ciò di cui si discute. Credo che la questione del no all'ingresso nei siti militari sia più una questione ad uso e consumo interno da parte di Khamenei per rassicurare i Pasdaran, le guardie della rivoluzione, esatto, cioè l'alatura, sì, del regime. Ecco, un altro punto abbastanza centrale, Paolo, perché a un certo punto la promessa di Barack Obama era che l'Iran avrebbe dovuto rinunciare a tutti gli acceleratori. Adesso non solo ne tengono molti in movimento, ma potranno fare una ricerca, perché francamente non mi preoccupa questo fatto che riconoscano se in passato avevano fatto ricerche per la bomba atomica o meno, però il fatto che possano far partire delle ricerche avanzatissime per migliorare la qualità degli acceleratori, beh, io quello lo trovo piuttosto preoccupante. E questo nell'ambito dell'industria farmaceutica, credo che questo dica l'accordo, quindi sono delle ricerche finalizzate all'industria farmaceutica e sono anche quelle sotto il pieno controllo delle autorità internazionali. Ho capito, però una volta che l'uranio arricchito può essere messo in parallelo No, Mario, bisogna vedere a quale grado di purezza è arricchito. Anche l'uranio per scopi pacifici è arricchito, ma è arricchito a un grado di purezza non superiore al 20%, che significa non ancora utilizzabile per scopi militari. L'uranio comunque va tutto arricchito per qualunque scopo, militare o civile. Il problema è che per gli usi militari devi arricchirlo a un grado di purezza infinitamente superiore. Bene, comunque, insomma, diciamo, ormai siamo agli sgoccioli, Paolo, forse ci sentiremo ancora nei volevo prossimi. Volevo anche dire un'altra cosa, se sì, posso. Dimmi. Cioè dire il risvolto geopolitico e geostrategico di un accordo con l'Iran. Ricordiamo che in questa fase in cui la lotta all'ISIS e al terrorismo, dopo gli attentati del fine settimana scorso, diventa ancora più attuale e drammatica, avere l'Iran spendibile per una alleanza internazionale contro il terrorismo islamista sunnita è una carta alla quale l'America e l'Occidente non vuole rinunciare. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più né più difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, Paolo, sei sempre in linea? Spero, sì, mi senti? Sono sempre in linea. Allora, canzone del giorno, Paolo, abbiamo parlato di speranze, tu sei molto ottimista, l'80% che questo accordo si fa. Ecco, che canzone vogliamo lanciare ai nostri ascoltatori allora, in questo spirito? Consideratemi un sognatore, ma forse non sono il solo. La citazione è da Imagine di John Lennon. Imagine di John Lennon, che dice appunto: You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. No hell below us. imagine no possessions. New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!